Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È appena stato pubblicato il terzo report da parte dell'Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano, che appunto ogni anno fa il quadro di questo settore, l'Industria 4.0, che è un settore strategico per un paese manifatturiero come l'Italia, ed è un quadro che, come stiamo per vedere, appare a questo giro, diciamo così, incoraggiante. Diamo il benvenuto a Giovanni Miragliotta, direttore dell'Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano. Buonasera Miragliotta. Bentornato. Melis, buonasera. Allora, intanto partiamo da qualche dato macro di mercato, un po' di numeri. Sì, quest'anno, nell'anno appena trascorso, 2016, la misura quantitativa che abbiamo fatto dell'investimento in progetti Industria 4.0 da parte di imprese italiane è stata dell'ordine di 1,6-1,7 miliardi di euro. A pari perimetro rispetto alla misura che abbiamo compiuto l'anno scorso, stiamo parlando di una crescita del 25%, quindi un comparto di progettualità in ottima salute. In ottima salute. Se ragioniamo in termini di tecnologie e tecnologie abilitanti, quali sono quelle che crescono più rapidamente o hanno i volumi più grossi? Sì, dal punto di vista della crescita e nonché dal punto di vista del volume complessivo, anche in questo 2016 a fare la pasta del leone è l'Internet delle cose, l'Internet of Things applicato al mondo industriale con quasi un miliardo di euro di progettualità. Una crescita molto simile, anche se a partire da volumi assoluti più bassi, quindi 330 milioni di euro l'anno scorso, un più 22%, a tutto il mondo invece delle applicazioni di data analytics e data science al mondo industriale manifatturiero. Più piccoli gli altri comparti, in particolar modo le applicazioni di cloud computing, 150 milioni, e per la prima volta quest'anno abbiamo provato ad apprezzare quanto cubino le applicazioni di robotica avanzata, autonoma, collaborativa, abbiamo stimato in circa 120 milioni di euro. Questa ripartizione del mercato è anche un segnale positivo. Sì, infatti è una struttura interessante. Ecco, a che cosa prelude questo tipo di suddivisione anche degli investimenti? Ma prelude a una prima fase in cui ovviamente le imprese devono guardare al tema infrastrutturale della connettività e dell'acquisizione dei dati dal mondo industriale, quindi a colmare un pochino il gap che esiste tra la realtà fisica delle operational technology e la realtà informativa delle information technology, ma poi una volta che questo passaggio si sarà superato, gli investimenti saranno gioco forza spostati sulle tematiche, certo, di estrazione del valore dei, ecco, dati. Diciamo che insomma è una struttura che fa ben sperare per il futuro, cioè uno si dota oggi di Internet of Things, ma da sola di Internet of Things non serve a niente, bisogna poi fare, non so, gli analytics sui dati che si riusciranno a recuperare. Quindi diciamo è una struttura che prelude a ulteriori investimenti in futuro. Ecco, e forse il dato più rilevante da questo punto di vista, che fa crescere anche le aspettative, non sono tanti i numeri del mercato, quanto i dati che riguardano la conoscenza del tema Industria 4.0 presso la platea degli imprenditori. Sì, l'anno scorso con grande disappunto abbiamo misurato un 38% di imprese che si dichiarava all'oscuro del tema, e avevamo ripetuto una survey simile nel novembre di quest'anno, chiedendo più in ampio il tema dell'industrial IoT, e i risultati erano di un 25% di non conoscenza. E invece in un anno siamo passati dal 38% a quanto? All'8%, questa è la rilevazione che è stata fatta 8%. Ad aprile di quest'anno, e oserei dire, se mi permetti una battuta, così come esiste un tasso di disoccupazione fisiologica, forse esiste anche un tasso di ignoranza fisiologica, diciamo così. Senti, a che cosa imputate questa accelerazione, che è abbastanza oggettiva? Beh, certamente ha un coacervo di cause, perché l'Italia ha fatto a tutti i livelli squadra su questa tematica. Infatti. In primo luogo dobbiamo dare un forte riconoscimento al Piano Nazionale Industria 4.0, per gli amici il Piano Calenda, che certamente ha avuto il pregio di associare a questa trasformazione una spinta costituita da importanti incentivi fiscali, e questo chiaramente ha aiutato le aziende a posizionare questo tema. Diciamo che ha attirato l'attenzione, no? Ma sì, come, lì ci sono degli incentivi, di che cosa si tratta? Io voglio essere sicuro di non perderli, per cui, visto che gli incentivi ci sono, intanto comincio a informarmi. No? Esattamente, questo ha spostato il tema, lo ha portato a livello di interlocuzione quantomeno finanziario, fiscale, allargando la platea delle persone in azienda che sono interessate alla problematica. Questo ha avuto certamente un grande effetto. Un altro effetto importante, chiaramente lo hanno avuto la stampa specializzata, le università, sì, l'accademia e i convegni che sono stati fatti. Tantissimi. Ma devo dire anche molto, e di questo diciamo prenditi tu anche una buona parte, la stampa generalista, in generale i media generalisti. Sì, c'è stato appunto gioco di squadra per una volta. Un dubbio però viene, non è che qui siamo di fronte alla corsa degli incentivi a proposito di quello che dicevamo prima? No, io sono più ottimista da questo punto di vista, c'è la chiara percezione che questa è una trasformazione epocale, essenziale. Il piano del governo aiuta chiaramente a spostare l'attenzione, a vincere anche magari qualche resistenza esattamente di ritorno economico, ma nel complesso devo dire che non penso che questo sia soltanto legato all'incentivo fiscale. Va bene, grazie Miragliotta. Grazie del tuo tempo, buon lavoro, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata a voi tutti.